America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It happened on June 9th of last year, right up there in the 25th floor of Trump Tower, that meeting. I was standing right below it, right there, covering a campaign that I learned. Collusione fra democratici e russi, con Hillary Clinton che concede dei permessi per acquistare una società, un'azienda che produce uranio. Collusione fra repubblicani e russi, fra Trump e russi, con il figlio di Trump che è stato beccato a dialogare con WikiLeaks su certe notizie che ancora non erano state rese note. Ci sono tutte le documentazioni, sono, come dire, novità di cui si parlerà nei prossimi giorni. Volevo darvi l'anticipazione perché anche il Dipartimento per la Giustizia ha deciso forse di aprire un'inchiesta sulla Clinton. Ma oggi voglio parlarvi d'altro, voglio parlarvi di eventi italiani. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, vi ho raccontato del concerto dei cameratisti della Scala che sono venuti col tenore Grigolo, vi ho raccontato del calendario Pirelli sul piano industriale e culturale, un evento straordinario della settimana scorsa, vi ho raccontato dell'American Cancer Foundation, dell'ISNAF che raccoglie tutti gli studiosi italiani in America. Insomma, come dire, nel momento in cui purtroppo abbiamo subito l'onta della sconfitta alla World Cup, e non vi dico qui, me ne dicono di tutti i colori, cioè purtroppo l'infamia tocca personalmente, ma sorvoliamo. E dunque, al di là, dicevo, di questo purtroppo incidente, di questa vergogna, c'è un'Italia che invece è seria, che va avanti, che fa delle cose, e ci sono degli italiani nel mondo. Ecco, qual è il collegamento tra noi, tra i nostri valori positivi e questi italiani nel mondo? Ci sono stati altri eventi, per esempio è partita la settimana della cucina italiana, lunedì in consolato c'è stata una serata dedicata alla cucina siciliana, Italy sta organizzando altre cose, insomma un po' dappertutto. C'è stato anche un evento alle Nazioni Unite piuttosto interessante dedicato a quello, organizzato da chi? Organizzato da Paolo Bassetti. Paolo Bassetti, personaggio importante nella nostra storia politica e culturale, ha fondato Globus Locus, ha scritto un libro, Svegliamoci Italici. Ecco, io ho Bassetti ai microfoni America 24, ho fatto con lui una chiacchierata proprio nei corridoi delle Nazioni Unite. Buongiorno Bassetti. Buongiorno. Allora, ma perché dobbiamo svegliarli questi italici? Dobbiamo svegliarli dal fatto che invece di essere 57 milioni di italiani, possiamo essere nel mondo 250 milioni di italici. E quindi riusciamo anche a applicare magari un aumento del PIL? Certamente, perché il PIL di 250 milioni è augurabile che sia maggiore di quello di 57, ma credo che soprattutto possiamo aumentare l'influenza nel mondo. Perché noi in fondo come Repubblica Italiana siamo uno stato di serie, insomma, discutibile, ecco. Mentre invece come civilizzazione siamo certamente una civilizzazione di serie A. Quindi il nostro problema non è tanto soltanto quello di riempire il mondo di più merci o prodotti o servizi fatti da noi, ma è quello di diventare più importanti nel mondo, facendo emergere il fatto che la differenza fra i 57 e i 250 milioni, che sono gli italici, e cioè non italiani ma italici, è forte produttrice di cose fatta all'italiana, e il mondo si sta accorgendo che l'importante offerta non è tanto solo quella fatta in Italia, ma è quella fatta da la cultura italiana, noi diciamo dagli italici. Ecco, e di questo se ne è parlato alle Nazioni Unite, c'è stata addirittura una conferenza. Ecco, se deve dare una sintesi, perché portiamo questa istanza alle Nazioni Unite? L'evento che abbiamo fatto alle Nazioni Unite era molto semplice, cioè le Nazioni Unite finora hanno funzionato come un insieme di stati nazionali. Noi diciamo che oggi nel mondo trasformato dalla globalizzazione farebbero molto meglio e molto di più se agissero come insieme delle grandi civilizzazioni, che da quella anglosassone a quella spagnola, a quella indiana, a quella cinese che si affaccia, stanno producendo il nuovo ordine del mondo. Ora noi dobbiamo inserirci lì, nell'organizzazione politica che governa il mondo e che non è più quella degli stati nazionali. Ecco, tra, diciamo, le civilizzazioni che hanno partecipato al convegno dell'ONU c'era anche il Giappone. il Giappone non è un paese, o comunque i giapponesi non sono un popolo di emigranti. I giapponesi però sono importanti, perché teniamo presente che, voglio dire, una cultura non è soltanto fatta di cose, no? Ma è anche fatta, per esempio, di tecnologie. I giapponesi sono nel mondo e soprattutto in Asia ancora la fonte più avanzata di tecnologia. Ecco, allora quello che i giapponesi stanno facendo è diffondere il loro modo, soprattutto di produrre e di vendere, come potenziale containment di quello che la Cina sta facendo invece, cioè spostando centinaia di migliaia di cinesi dovunque nel mondo. Ecco, l'istanza è soprattutto culturale o anche economica? Cioè, vogliamo dire, allarghiamo l'abbraccio, cerchiamo di rafforzare i rapporti con gli italo-australiani, americani, sudamericani, oppure cerchiamo di creare un prodotto a denominazione controllata italica? Non c'è economia senza una cultura, cioè ogni bene economico è il prodotto di una cultura. Quindi in questo senso, se noi vogliamo esportare di più, rendere più presenti nel mondo le nostre produzioni di beni o di servizi, dobbiamo rendere noto al mondo i pregi del nostro modo di fare cose e servizi, e questa è una dimensione culturale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre con me Piero Bassetti ai microfoni di America 24. Allora, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Di ricordarsi di noi, You Must Remember Me. Versione di Brian Ferry, You Must Remember Me. Ricordiamoci della nostra Italia. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!